24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Italia, sì, Italia no, Italia gnamme, se famo tu spaghi, Italia sob, Italia prot, la terra dei cachi, una pizza in compagnia, una pizza da solo, un totale di due pizze, e l'Italia è questa qua. Sono stati deportati, letteralmente deportati, 10 parlamentari del Partito Democratico che non erano d'accordo con Renzi. Questa riforma elettorale propongo di chiamarla Deportellum, altro che Italicum, è la legge dei deportati, perché se qualcuno non è d'accordo deve essere cacciato via. Italia non ci sta, Italia sì, Italia no. Sinceramente credo che in realtà abbiano poca dimestichezza con le regole della democrazia, più che altro le opposizioni. Italia sì, Italia no, Italia gnamme, se famo tu spaghi. No, no, io penso che abbia ragione Renzi, perché la democrazia si basa su un concetto molto semplice. C'è una maggioranza democraticamente eletta che prende le decisioni per nome di tutti. La minoranza può contribuire al dibattito, può addirittura opporsi e votare contro, ma quello che non può fare è sostituirsi alla maggioranza. Renzi realizza una prova di forza abominevole, violentando il Parlamento, ma violentando il suo stesso partito. L'ultima chicca, dopo la deportazione, sono entrati come sostituti almeno 6 abusivi, e cioè 6 deputati del PD nominati grazie al premio di maggioranza dichiarato incostituzionale. Compagnia, una pizza da solo. Forse ha proprio ragione Renzi a dire: non è tanto il problema l'Italicum, quanto sono io ormai entrato nel mirino. Addirittura su alcuni giornali viene definito il partito dei... com'è che è definito? PDRP, il partito dei rancorosi, che vogliono fare cadere Renzi. Vabbè, a parte le opposizioni, Romano Prodi, Pierluigi Bersani, Enrico Letta, Massimo D'Alema, Rosi Bindi, Cofferati. Sulla legge elettorale, l'avreste mai pensato? Alla 103esima settimana decisiva forse si consuma la battaglia politica. Lo dico, no tenetemi, lo dico, no tenetemi, lo dico, decisiva! Una pizza da solo. Chi lo sa, chi lo sa. Staremo ovviamente a vedere. Sono le 6:33 minuti, cari ascoltatori di 24 mattino, amici miei debosciatielli. Il numero per i vostri messaggi 349-238-6666. Sarà la partita decisiva? Oggi ve lo chiedo io così: sarà la partita decisiva questa dell'Italicum? C'è Lorenzo Nespoli in redazione, c'è l'alpino Peter Bescapè in regia, c'è Luca Dini, direttore di Vanity Fair, che saluto. Buongiorno. Buongiorno. Ma oggi Luca la dobbiamo dire noi due. Ci sono due di cui non ce ne frega niente, cioè io e te. No. Perché ritorna con noi. 2015, con evviva noi. Le Rosse torna, ma diventa evviva la Paola, con Paola Saluzzi. Eccola. E Paola Saluzzi. E Paola Saluzzi. Paola Saluzzi. Allora, cominciamo col dire innanzitutto buongiorno e un bacio. E non è vero che ci sono due di cui non ce ne frega nulla. Ma come? I due mitici del mercoledì, come si fa senza Alino e senza il Super Beer? Benissimo. Parliamo. Benissimo si sta, appunto. Benissimo, benissimo. Non è vero. Come stai, Paola Saluzzi, la nostra rossa? Come stai? Questo voglio sapere. Molto bene. Oh. Molto bene, carica al lavoro e pronta a seguire anche questi eventi decisivi di cui tu poc'anzi parlavi. E felice di te. E allora, vabbè, ti mettiamo. Cos'è che è Je t'aime, questo è il titolo? Vabbè, dai, è così. Ma, no. Tornata alla nostra Paola. No, questo va bene. Io arrossisco, tanto non si vede il radio. Esatto, sei più. No, poi diventi ancora più rossa. Se arrossisci, allora, e fare troppo. Allora. La nostra rossa è tornata. Insomma, la nostra Saluzzi. Evviva. Ci siamo. Evviva. Allora, dai, apriamo il Parlamento. Che qua bisogna discutere di tante cose. In realtà, le due tematiche. Che vado a prendere un caffè, sono quelle, la legge elettorale, la politica e poi ovviamente anche la discussione sulla situazione immigrazione. Allora, beh, vogliamo partire così dalla politica, dai, così ce la togliamo dalle balle, giusto per essere caro Luca Dini, è la partita decisiva. No, effettivamente la mia sensazione è che sia più una battaglia ormai su Renzi o non Renzi, più che legge elettorale o no, direttore, che dici? Sì, no, si chiama la partita dei cadaveri contro quello che vince. Ha scommesso tutto sul cavallo vincente Renzi. Ma dai, tu dici, lo so, soprattutto come dici tu, per l'Italicum, ma vi prego. Sì, effettivamente questa fa un pochino sorridere che si sta facendo tutto questo per una legge importante, per carità, la legge elettorale sull'Italicum. Paola, è un po' tanto, fa un po'. Mi ricordo tanti anni fa avevano pensato una partita Maradona Resto del Mondo, no? Sì, si potrebbe fare Renzi il resto del Parlamento. Insomma, è un po' tanto, un po' è naturale la discussione politica, però è molto accesa, molto piena, molto accesa. Peraltro, ieri sentivo da un nostro ospite che insomma tutto questo fa parte anche del regolamento, cioè la possibilità di allontanare. Eventualmente decida di fare dal punto di vista legale si può fare. Non ha precedenti come decisione, cioè 10 in commissione del PD che avrebbero votato contro la legge elettorale sostituiti dal PD stesso con 10 che casualmente voteranno sì alla legge elettorale. Staremo a vedere, che detto così sembra tanto comodo e tanto via di mezzo, no? Restiamo nel mezzo così capiamo, però staremo veramente a vedere. Oltre a questo, che è politica strettamente interna, è diventato argomento di politica interna, questo forse facciamo bene a ricordarlo, non certo io, ma insomma in generale, quanto è appena avvenuto nei mari, nel Mare Nostrum, cioè non è la tragedia con gli scafisti che oggi vengono visti anche in foto, mentre guardano con aria serena appoggiati mollemente sul ponte facendo parte in quel momento delle persone da soccorrere, credevano loro, guardano le salme portate via così della serie, ma sai pare che uno di questi, anzi quello che era al timone, fosse completamente ubriaco e si fumasse dell'hashish, questo durante tutto il viaggio. Cioè, è una guerra, E questo sì, ed è molto decisiva, attenzione, perché noi pensiamo di vivere su un altro pianeta, mentre un pianeta di sotto sta morendo di fame. Comunichiamo che la palla è rotonda ed è una. Esatto, no, devo dire che la vera guerra, quella certamente ci arriviamo tra poco, è quella lì, anche perché si profila proprio una guerra vera e propria e vorrò avere il vostro parere perché è molto, molto interessante quello che sta succedendo e quello che l'Europa potrebbe fare sulla questione immigrazione. Sì, sulla questione politica o come la dobbiamo derubricare, però caro direttore, qui l'ha fatta, insomma, non ha precedenti questa decisione, va bene? Però devo dire, io raramente sono d'accordo con... Era Sallusti quello, vero? Però sì, è vero, sì, cioè, la minoranza può fare tante cose ma non si può sostituire la maggioranza, cioè così è. Non può fare la minoranza di Esatto, e poi quella mania di dover sempre scendere a compromessi con la minoranza, quella che ha bloccato costantemente la vita politica italiana, quindi Tra l'altro tenete conto di una cosa. Io non lo voglio più, non lo vorrei più. Non vorresti più. Vorresti che almeno si decidesse, poi uno può discutere nel merito, però un po' di decisionismo. Tra l'altro diciamo una cosa, sono stati sostituiti in commissione e lì in commissione il testo sarà licenziato. Poi andrà in aula. Lì non è che in aula può sostituire quelli che lì in aula dove ci sarà il voto finale ci sono tutti e se uno vuol votare contro i Bersani, Cooper, voterà contro e quindi se il cui voto però purtroppo per loro continua a contare uno, cioè... sì beh conta uno beh vabbè però bisogna vedere se questo uno si somma lì ci saranno poi i calcoli eccetera, ma è chiaro che i numeri sono a favore, a meno che non ci sia una fronda del PD clamorosa, la legge passerà. Però poi ci sarà la discussione, insomma, si prosegue nel dire ciò che vada, ciò che non vada, quello che possa funzionare o meno, ecco. Sicuramente è una presa di posizione, senz'altro, che dà dolori, mal di pancia, viene vista anche con orrore da qualcuno, è una presa di posizione, andare avanti, insomma, questo certamente. Come andare avanti sarà sull'immigrazione. Allora, sentite Alfano ieri, credo, di martedì. Allora, l'Europa sta pensando a agire militarmente. L'Italia potrebbe essere in prima linea su questo. Pensate che Renzi, racconta il Corriere della Sera, ha definito questo in Consiglio dei Ministri, quello che sta succedendo, come l'11 settembre italiano. Sentite Alfano. Siamo alla ricerca di un consenso su un quadro di legalità internazionale per affondare i loro barconi. Noi da soli non lo possiamo fare. Quando sento una serie di raffinati giuristi o statisti che sostengono andiamo lì e facciamo un'azione con le nostre navi, questa è dichiarazione di stato di guerra. Lo ha dichiarato questa mattina anche il capo di Stato Maggiore della Difesa. Non è possibile andare con le nostre navi lì senza un'autorizzazione internazionale. Questo deve essere molto chiaro. Vabbè, questo dice Alfano, insomma, ci vuole un quadro internazionale, una cornice, qualcuno che dica si può fare, non è che possiamo partire e andare in Libia a meno che non vogliamo rioccupare la Libia, ma lo abbiamo già fatto in epoche che non vogliamo rinverdire. Però Luca Dini, anche qui è la soluzione, cioè quella di io credo di sì, c'è cioè una soluzione militare e ti è chiedo una soluzione, non è una soluzione, è una gestione. L'esodo non si risolve né si ferma, questo sono convinto, quindi poi cioè non basta quello, questo è importante perché per evitare questo traffico schifoso, devo dire però che il traffico c'è comunque e tornare alla situazione precedente dove semplicemente questi affogavano nella sabbia invece che in acqua. Bravo. Non è che sia più decente, è soltanto che non lo vedevamo, non sporcavano le nostre spiagge, quindi però bisogna se si interviene militarmente in loco, secondo me non basta affondare i barconi. Bisogna andare più a fondo, fare lavori di cooperazione internazionale. L'abbiamo detto tante volte che diamo lo 0,17% del PIL, che è un sesto di quello che ci chiederebbe la comunità internazionale per aiutare le persone a stare un po' meglio magari nei propri paesi. Però io dico anche soprattutto gli ex sodali del governo Berlusconi che ho sentito in questi giorni sparare trombonate di tutti i tipi, ci dobbiamo ricordare che noi pagavamo Gheddafi per tenerli nei lager, questa è la verità. All'epoca in cui c'era per esempio Maroni, che sarà il nostro ospite alle 8:15, stai attento che glielo dico, che parli male di lui. Ma è vero. Vado dalla maestra a dire che parli male di lei. Non vedere una cosa non vuol dire che non ci sia. Sì, però Paola, lo chiedo anche a te, è vero, non possiamo chiudere gli occhi, o meglio, se muoiono nel deserto non li vediamo. E non danno fastidio, questa è una brutta e amara verità. Però io dico, faccio un po' il quello che rompe le uova nel paniere, possiamo anche risolvere i problemi del mondo? Cioè possiamo farci carico ma di questo? Dobbiamo risolvere i problemi del mondo, Alessandro, non dobbiamo Italia, perché su questo ci sono due punti. Ha fatto benissimo Renzi a dire l'11 settembre del nostro paese, per un motivo, siamo la naturale piattaforma nel Mediterraneo, arrivano prima da noi e noi siamo un paese che va supportato e aiutato a livello non solo europeo, a livello mondiale, primo. Secondo, dobbiamo fare in modo che sia nostra la soluzione, perché la soluzione, il piano Marshall, che chiaramente ci andiamo a ristudiare perché nessuno di noi era nato negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra, ha rimesso in piedi un paese che era nella morte, nelle pezze, nella fame e nell'acqua che dovevi fare la fila per andare a prendere. Sì. Questi eravamo noi ed era il resto dell'Europa per colpa di gente che poi oggi trova chi scrive ancora gli insulti al rabbino Toaf sui muri di Roma, ma non vorrei allargare troppo il discorso. Mm. Intendo dire, la follia della guerra ha prodotto morte, fame e disperazione, anche se gli italiani partivano da molto prima per andare a cercare fortuna altrove. Ci vuole una soluzione mondiale, globale, per evitare che le persone, tanto di cappello a Lucadini, anneghino di sabbia, anneghino di violenze. Le donne arrivano incinta non dei loro mariti o dei loro fidanzati o dei loro compagni, arrivano incinta quando sono vive di violenze. Però... non è non guardando il problema, il problema è che quando arrivano da noi si chiude gli si dà accoglienza e poi li si disperde e vanno a fare i raccoglitori di pomodori. Io vorrei parlare con quelli che mangiano salsa di pomodoro raccolta da mano di persona schiavizzata nel nostro paese. Questa è la vergogna che va cambiata. La vergogna è questa. Dopodiché oggi Vittorio Feltri per esempio scrive: guardate l'Australia, e vabbè, l'abbiamo detto, l'Australia è un paese molto lontano, un continente, non è che a largo dell'Australia, a parte che c'è un mare ampio, sì, poi non è che ci sono, non è che c'è al di là dell'Australia l'Africa che ribolle di guerre, di persecuzioni eccetera. Certo c'è l'Asia, ci sono anche paesi in difficoltà, ma però Vittorio Feltri dice anche: guardate la Spagna, perché non vanno in Spagna? Perché lì è una meta meno ambita, perché hanno mostrato più durezza. Non so dire se sia giusto o no, Luca, però si pone questa problematica. Sì, sì, no, io dico, guarda, si può parlare di come la cosa viene gestita, però non, quello che non si può fare è fermarla. Cioè, noi, tu dicevi prima, non ci possiamo fare carico dei problemi del mondo, però bisogna. Non li puoi neanche ignorare, perché non si transenna il mare, quindi in qualche modo devi su fare. Questo non c'è dubbio. Puoi anche decidere di affondare i barconi con la gente sopra, è una scelta terribile, ma voglio dire, si può fare tutto, però comunque non fermi questo esodo. No, su questo non c'è dubbio. Quando si dice qua fare qualcosa, ripeto, la cooperazione internazionale ci chiede denaro e non lo diamo, ne diamo pochissimo rispetto a quello che ci chiede. E poi non è detto che questo denaro risolva i problemi del mondo, risolva i problemi di quei paesi lì. Non lo so, non c'è una soluzione, non è che possiamo darla noi alle 6:45 del mattino. Non è una soluzione unica, è una soluzione complessa. Certo, però giustamente il nostro direttore ci dice: se facciamo finta che i problemi non ci sono, poi che muoiano nel deserto o ci muoiano in acqua, non è che fa molta differenza, sempre morti sono. Andiamo a sentire il traffico e poi rientriamo. Brum brum brum, c'è il traffico Milan 24 mattino. Ci rendiamo conto che abbiamo un'esposizione mondiale, e un anno fa sono andato in biglietteria alla metro e avevo un ragazzo straniero che tentava di comunicare in inglese e quel bell'uomo dietro lo sportello ha detto: Gennaro, vieni che non sono capace di tradurre. Ragazzi, il mondo viene in Italia e non sappiamo neanche dire buongiorno in inglese. Basta! Enrico Letta va a Parigi. Ah, quindi non è vero che vanno solo i cervelli all'estero. Non è una fuga di cervelli in sto caso. Buongiorno, ma Renzi quando parla si sente, si ascolta, lui parla a braccio e dice delle cose assurde, dice che vuole assicurare alla giustizia gli scafisti, ma quando arrivano a procurare decine e decine di morti? Ho visto la Rossa Paola cucinare a chef per un giorno. Alla fine della trasmissione mi sono alzato, sono entrato in cucina, c'era mia moglie che stava cucinando, l'ho guardata e gli ho chiesto il divorzio. Adesso Paola dovrà venire a casa mia a far da mangiare o quantomeno aiutarmi con l'avvocato. No! No! Sono danni collaterali della TV. Sono sconvolta. Signor ascoltatore, io la ringrazio. No, ma che poi che brutta cosa. Ma poi, signor ascoltatore, ma dai, ma cosa c'entra? Allora io vado a vedere un film con, non lo so, adesso dimmi un'attrice, dai, di quelle. Alessandro, fammi dire una cosa senza andare all'attrice, che già mi onora che tu nomini. Non so cucinare! No, ma come? Ma com'è? No, un disastro, un disastro. sono un disastro. Quindi rientra subito la causa di divorzio, caro ascoltatore. La causa di divorzio, regali 100 rose rosse a sua moglie, non ci pensi proprio. La prego. Però, ma cosa ti hanno fatto cucinare lì? Cioè, ma che... no, è stato bellissimo, perché a un certo punto in questa puntata, nella quale fatta anni fa mi sono divertito un mondo, ho mandato a fuoco tutto il sugo. Ah. Perché volevo fare la cosa flambé e invece c'è stato bisogno dei vigili del fuoco, perché veramente ha preso fuoco una pentola come il tipo dell'Olimpiadi. Insomma, l'ascoltatore non era molto interessato a come è venuto, a come è venuto il pranzetto a ridurre i danni. Vabbè, comunque prego, cose che succedono. Beh, io mi immagino una scena, poi è entrato, ha visto sua moglie in cucina e vabbè. Allora, sentite qui l'amministratore, vi faccio sentire questo che siamo un po' di corsa. L'amministratore delegato delle Poste, Caio, è andato a un'assemblea con i dipendenti abbastanza arrabbiati, ha provato a dire, sentite che è successo, lo stipendio di Caio. Com'è finita la storia dei giorni al termine? Allora, sbagliata anche quella, bocciata dalla comunità europea, non ne avete azzeccata una in un anno, una! Vi dovrebbero cacciare a calci per i soldi che prendete. Quanto prende lei? Quanto io prende? Un milione e due a fare. Lo stipendio, Luca Dini. No, vi prego, me la rimettete, perché Caio voleva rispondere, dunque io prendo, mi faccio pensare, un milione e due. Una! Vabbè, insomma, qua parlano così, ma a un certo punto gli chiedo, lei quanto prende? Quanto prendo? Un milione e due. Luca era onesto, lui stava dicendo il suo stipendio di amministratore delegato delle Poste. Poteva uscire con una scusa, dai. E cosa poteva dire? Dire ma lo stipendio no, non importa. Invece è stato lì, faceva ci pensava un attimo. Dunque mi faccio pensare, un milione. Vabbè. Allora, ho qui la copertina di Vanity Fair, c'è Sean Penn con una lunga intervista, ma il servizio che più mi interessa è questa cosa sui vaccini. Ma ancora, Luca Dini, so che c'è un dibattito da sempre sui vaccini, però, mamma mia, io temo che siamo sempre un po' antiscientifici noi in Italia, Eh beh, sì. Allora, io capisco, ci sono delle famiglie, ci sono dei genitori e che hanno delle situazioni drammatiche e secondo me adesso non voglio, purtroppo ci sono alcuni professionisti non molto professionali che fanno delle diagnosi un po' così approssimative. La verità è che tu dici ne sono stati tanti e ci sono molte più vittime di non vaccinazione contrario. Si muore ancora. È un problema gigantesco. Si muore ancora di malattie in Italia che sarebbero debellate perché la gente non fa il vaccino. Sinceramente mi sembra un po' questa la vera tragedia. Però trovate tutto su Vanity Fair, c'è Sean Penn, cara Paola, in copertina. Se vuoi, 54 anni, portati benissimo. Accidenti. E siamo già pronti davanti alla... già pronti. In realtà vi parlo e sono davanti alle edicole. Ecco, tu preparati che alle 3 sei lì sul canale 27 pronti. Di Sky. Saremo pronti, ovviamente il tema, ribadiamo, è il resto del mondo cosa debba fare per evitare situazioni. Io non mi tolgo dagli occhi la faccia di quegli scafisti che sono fotografati oggi, li ho visti, le fotografie. Mi sono tutti gli occhi su Repubblica, su questi che sono mollemente appoggiati sul ponte. Ribadisco, guardiamoli bene negli occhi, li abbiamo creati noi, ma non noi per guai al buonisti. No, guai al buonisti. E poi ci occuperemo anche di politica, ovviamente. Ovviamente. Con i 10 piccoli indiani e vediamo che cosa. La legge elettorale. Grazie, alla prossima! Vi dovrebbero cacciare a calci per i soldi che prendete. Quanto prende lei? Quanto prendo? Un milione e due. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, cari ascoltatori, sono le 7:17 minuti. Buongiorno, amici miei debosciati d'Italia. Come vi appello io in maniera molto molto affettuosa, eh? Oggi avremo ospite Roberto Maroni, che è il presidente della regione Lombardia. Parleremo certamente della situazione immigrati. Il ministro dell'interno chiede ancora 6.500 posti da trovare nelle varie regioni per distribuire gli ultimi arrivi sulle coste. E parlare anche di altri temi, parleremo anche di calcio, meglio di violenza nel calcio. Mi ha molto colpito questa notizia che ieri raccontavamo dell'Atalanta, la società di calcio che di fronte a un capo tifoso che è stato condannato in via penale lo ha invece graziato dal punto di vista suo, perché l'Atalanta ha ritirato la querela nei suoi confronti. Il rapporto tra le società di calcio e i tifosi, spesso un rapporto è un po' da indagare, almeno in Italia. Avremo con noi Oliviero Bea, giornalista. Avremo anche il sindaco di Gandosso, Alberto Maffi, sindaco che è stato condannato anche lui in questa vicenda degli ultra. Vedremo come, questo dalle 8.30. State con noi ovviamente, ora leggiamo i giornali. È mercoledì 22 aprile, qualche titolo. Il Sole 24 Ore apre sui controlli fiscali, fatture online e scontrini. Ecco cosa cambia. I tre decreti su abuso del diritto, documenti elettronici e internazionalizzazione delle imprese approvati in Consiglio dei Ministri. La situazione invece degli altri giornali è la politica. Il Corriere della Sera, scontro finale sull'Italicum. Così Repubblica, le opposizioni sull'Aventino, no all'Italicum. Mentre l'immigrazione rimane comunque in primo piano per il Messaggero, pronti a colpire i barconi. Così il giornale, sparare agli scafisti, ecco la soluzione. Il Fatto Quotidiano invece fa i conti, 1700 morti in più nel 2015 per risparmiare 30 milioni, è il passaggio da Mare Nostrum a Tritone. Per la Stampa, l'Unione Europea in guerra contro i trafficanti di uomini, e il Manifesto, l'Europa affonda e c'è la foto di un migrante. Il titolo di prima pagina dell'Avvenire è invece: fermiamo la tratta, l'Unione Europea vuole il sì dell'ONU. Come vedete, le due notizie principali sono ancora l'immigrazione e la politica, così si snoderà, e su queste la rassegna stampa. Prima però alcuni articoli, come sapete, di altro taglio, e voglio partire da questa storia che viene raccontata da vari giornali e viene raccontata, io la leggo da Repubblica, dove Andrea Tarquini racconta e spiega quello che si è aperto come processo ieri in Germania. Un processo a Oskar Gröning. Chi è, direte voi? Beh, è l'uomo che requisiva il denaro degli internati dei lager. 93 anni. Ieri si è aperto il processo. Non ha ucciso mai nessuno, ma ha partecipato, da fiero sostenitore dell'SS, allo sterminio degli ebrei e non solo. Andrea Tarquini racconta: vi chiedo perdono alla sbarra, il contabile di Auschwitz. Allora avevo 21 anni, vedevo in Hitler il salvatore della patria, nell'SS mi sentivo parte della casta scelta per la vittoria. Poi non ebbi mai pace. Ora capisco la mia piena colpevolezza morale. A voi sopravvissuti, parenti delle vittime, qui in aula chiedo solo perdono, e se devo essere punito, giudichi lei, vostro onore. Così, a 93 anni, Oskar Gröning pronuncia il suo mea culpa. È entrato lento e curvo, sorreggendosi al deambulatore, si è seduto alla sbarra, inforcando gli occhiali, e ha iniziato a dire: vostro onore, lasciatemi parlare. Ha parlato tre quarti d'ora e ha raccontato la sua complicità in almeno 300.000 omicidi. Tanti furono gli ebrei ungheresi consegnati al Reich e mandati in corsa alle docce e poi ai forni. Lui non ha mai sparato un colpo, ma da buon funzionario teneva i conti. Marchi, sloty, lire, fiorini, migliaia di dollari, centinaia di sterline. Toccava a me registrare ogni contante sequestrato a chi veniva scaricato da treni, calcolare il tasso di cambio, versare tutto a Berlino. E quando capì a cosa avrebbe partecipato? Chiede il giudice: vede vostro onore, ci fecero firmare una dichiarazione segreta di fedeltà assoluta, ci dissero compirete azioni non eroiche né gloriose, ma i nemici del popolo tedesco vanno annientati. E però Il senso del dovere cieco ci fu fino al giorno in cui vidi una mesta fila di gente in marcia. Mi sembrarono tutti ebrei. Mettiti la maschera antigas, mi disse il superiore. Furono spinti in un locale con scritto docce. L'ufficiale sprangò la porta, udii urla sempre più forti e poi il silenzio. Alcuni dei presenti, lo so, mi riconoscono. Mi videro alla rampa. Là, un giorno, davanti ai miei occhi, un soldato dell'SS strappò dalle braccia materne un neonato che piangeva e lo sbatté a morte contro le pareti di un vagone. Lo uccise così, capite? Nemmeno con un colpo di fucile. Capii allora di aver scelto la parte sbagliata nell'inferno. Chiesi di essere trasferito al fronte, ma invano. Beh, questo è un racconto anche molto, molto duro di Oscar Gröning. Da ieri si è aperto il processo, con il classico dibattito anche di storici, di personalità in Germania, dire, qualcuno dice anche, forse stiamo chiedendo troppo a questa persona ora a 93 anni nel processo. Comunque, trovate su Repubblica questo racconto a pagina 19. Veniamo a cose ben più prosaiche, italiane. Beh, qualche chicca qua e là. Il Fatto Quotidiano racconta che a Palazzo Chigi, lo fa Paola Zanca, pagina 9, Matteo Renzi, il Presidente del Consiglio, ha promosso nel suo staff un sovrintendente della polizia. Chi è? Si tratta di... come si chiama? Boh, mi sono perso il numero. Attili, ecco, mi sono perso il nome. Filippo Attili, eccolo qua, fa parte della pattuglia di poliziotti di stanza Palazzo Chigi già da tempo. Quali saranno le mansioni di Filippo Attili? Fare le riprese TV alle trasferte del capo del governo. C'è la protesta dei sindacati, Palazzo Chigi, un video poliziotto per Matteo Renzi. Questo racconta a pagina 9 il Fatto Quotidiano. Mentre vicissitudini economiche per Silvio Berlusconi. Attenzione, perché non si sono messi d'accordo gli avvocati per quel che riguarda l'assegno del divorzio di Veronica Lario con Silvio Berlusconi. Attualmente 1.400.000 euro al mese è ciò che deve versare Berlusconi a Veronica Lario, ma Veronica Lario lo vorrebbe in una cifra unica. E allora, come si fa a stabilire questa cifra unica? Beh, bisogna calcolare le aspettative di vita. Ecco che sulla stampa Paolo Colonnello racconta questa vicenda. Ora Berlusconi calcola la sua aspettativa di vita. È forse il colpo più duro che Veronica Lario sia mai riuscita ad assestare al suo marito ex Silvio Berlusconi, costringendolo ad ammettere davanti a giudici che ormai è diventato troppo vecchio e la sua aspettativa di vita, dopo che il 29 settembre compirà 79 anni, si aggira probabilmente non oltre i prossimi 10-15 anni. Crolla così definitivamente il mito del capo e della sua eterna giovinezza, dei lifting, dei trapianti di capelli, del cerone, degli effetti flu, cancellati dai riflettori del Tribunale di Monza, perché ieri pomeriggio i legali degli ex coniugi si sono ritrovati per una breve udienza per decidere sull'assegno di mantenimento che dovrebbe spettare all'ex signora Berlusconi dopo il divorzio. Attualmente è pari a 1.400.000 euro al mese, cifra che, moltiplicata secondo le aspettative di vita della 59enne Veronica Lario, ovvero almeno 30 anni, porterebbe al versamento di circa 500 milioni. Ma i legali di Berlusconi si sono opposti, chiedendo ai giudici di calcolare l'importo non sulle aspettative di vita della signora Lario, ma su quelle di Berlusconi, che necessariamente sono diventate decisamente inferiori e hanno stabilito attorno ai 10-15 anni di aspettativa di vita. Per carità, scrive Colonnello, si tratta di calcoli cinici e bari dove i giudici dovranno decidere con una certa delicatezza e anche scaramanzia, ma questo capita nelle cause di divorzio dove di solito volano ben altri stracci. Deciderà il tribunale entro 2 mesi. Deciderà secondo un calcolo approssimativo quale sarà l'aspettativa di vita e vedremo di chi, se di Veronica Lario o di Silvio Berlusconi. Vabbè, che dire, cari ascoltatori, mancano 10 giorni più o meno all'Expo. Partenza il 1 maggio. Certo, il Corriere della Sera oggi racconta con Elisabetta Soglio che a pagina 23 che si fa fatica a trovare persone che lavorano nell'Expo. Anzi, addirittura, secondo quest'articolo, 8 su 10 ci ripensano. 600 persone reclutate, lo stipendio è circa sui 1.300 euro netti al mese. E racconta il Corriere, sarà che è solo per 6 mesi, sarà che c'è di mezzo l'estate e poi i turni prevedono anche sabato, domeniche, sarà che i più bravi e fortunati nel frattempo trovano qualcosa di meno precario. Fatto sta che per gli uomini di Expo reclutare 600 persone da mettere al lavoro durante l'esposizione universale è difficile. Parliamo di 1.300-1.500 euro al mese, su per giù, compreso di festivi, notturni, come da contratto nazionale, ma il 46% dei primi selezionati è sparito al momento della firma, sparito proprio nel senso letterale, neanche senza rispondere grazie ci ho ripensato, e quindi via così col secondo gruppo di selezionati e poi con il terzo, e cioè persone che prima evidentemente hanno detto sì e poi spariscono. Ci ha ripensato, sono pochi soldi, c'è l'estate, non si sa. Il Corriere della Sera fa sapere che spesso si va verso le seconde scelte e terze scelte perché altri spariscono. Vabbè, ma siamo al momento, guardate, lo cito solo così, dell'articolo. Mani sul volante, o meglio, bisognerebbe dire in questo caso mani sulla borsetta. No, mani sul volante se siete alla guida. O tazzine del caffè bollente da appoggiare. Oggi l'articolo, articolino che vince il premio Mani sul volante, è di Alessandra Longo su Repubblica. Le borse della segretaria, racconta la storia di Claudia Minutillo, ex segretaria di Giancarlo Galan. Ha deciso, scrive Repubblica, di vendere le sue borse per pagare le parcelle degli avvocati incaricati di difenderla dalle accuse di corruzione e evasione fiscale. La notizia è ripresa dalla Nuova Venezia, che racconta come la Minutillo, neo Imelda Marcos, lei amava le scarpe per la verità, pare collezionasse borse Hermès, ne avrebbe una ventina, modello Birkin, vari colori, prezzo medio, singolo, oltre 6.000 euro. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Torniamo ai primordi, il primo che lanciò queste straordinarie sigle, il panettiere dell'informazione. Grazie ascoltatore, non ti saremo mai abbastanza grati. Allora, l'immigrazione rimane il tema ovviamente principale per molti giornali. Il titolo del Quotidiano Nazionale, io l'edizione del Nord, Il Giorno, è proprio questo, emblematico, in prima pagina. Guardatele bene in faccia queste due persone. Facce da scafisti, questo è il titolo. È la foto dei due trafficanti di uomini arrestati, un tunisino e un siriano. Lì, che parlottano, confabulano poco prima di essere arrestati, evidentemente perché sono identificati dal resto dei migranti come i due scafisti, e le sembrano tranquilli, anche se scrutano, sembra guardare, interpretare attraverso i loro occhi a capire se è in vista qualche problema per loro. E qualche problema per loro c'è, perché sono stati arrestati ovviamente. E poi la dinamica ormai sempre più chiara, pare ci sia stata una collisione tra il barcone e il mercantile, che è il mercantile portoghese King Jacob, che è andato a soccorrerli. Probabilmente la collisione era perché, secondo le molte testimonianze dei migranti, uno dei due scafisti era ubriaco, totalmente ubriaco, e fumava hashish durante la traversata. Poi, quando addirittura è arrivato il peschereccio King Jacob, ha abbandonato i comandi nella speranza vana di confondersi in mezzo ai migranti. Risultato: collisione, manovre di accostamento eseguite con imperizia hanno causato la collisione tra il peschereccio carico di migranti e il mercantile portoghese King Jacob. Così racconta il Corriere della Sera, pagina 4, con Giusy Fasano. E cos'è successo? Che quando c'è stata la prima collisione, tutti i migranti che erano sotto coperta si sono mossi, impauriti, e questa mossa probabilmente ha sbilanciato il barcone, che si è rovesciato. Immaginate la scena di quelli intrappolati sotto, annegati così. Il Fatto Quotidiano a pagina 3 raggiunge il comandante della King Jacob Abdullah Ambrosi, che viene intervistato e dice: certo, sono stato coinvolto nel salvataggio, non posso dire molto, anzi non posso proprio dire nulla, sono coinvolto nelle indagini, è vero, e riguarda la collisione non posso rispondere, posso soltanto dire che spiegherò appena possibile le cause dell'impatto. Non può dire molto, anzi nulla, ma chiaramente l'impatto c'è stato. Ora, che fare? Tutti si chiedono che fare, come fermare questa ondata. Fermo restando, come ci ha detto prima il direttore di Vanity Fair, Luca Dini, alle 6.30, che non è che si può fermare la naturale propensione di qualcuno che vive in condizioni disagiate a volersi spostare per andare in posti dove pensa o presume di vivere meglio. Questo non si può fermare. Ma come gestire questa situazione? Il commissario europeo all'immigrazione Avramopoulos viene intervistato dalla Stampa, pagina 3, da Marco Zatterina, dice: abbiamo dichiarato guerra ai trafficanti di esseri umani. Non mi stanco mai di ripetere che Tritone è una missione europea di frontiera nell'ambito di Frontex, che non intende rimpiazzare Mare Nostrum. È l'intervento più importante che abbiamo mai deciso, ma sappiamo che non è sufficiente, lo rinforzeremo. Con la decisione di rafforzare Tritone e Poseidon, l'Unione Europea dimostra di essere solidale. Poseidon è la versione greca della stessa missione Tritone. Sono al lavoro per dare tutto l'aiuto di cui c'è bisogno, ma da sola la Commissione non può bastare. C'è bisogno che le altre capitali europee mostrino solidarietà. Come si può fermare questo flusso di persone alla partenza? Chiede la Stampa ad Avramopoulos, che risponde: si può, lavorando a stretto contatto con i paesi di origine e di transito. Il dialogo è aperto. Sono quelle frasi che ti fanno allargare un po' le braccia. Sì, vai a lavorare di concerto con la Libia, per esempio, in questo momento. Si può lavorare con la Libia. Ci si può mettere al tavolo discutendo con la Libia? Ma non lo so, sembrano frasi un po' che lasciano poca speranza. Tanto è vero che Renzi, secondo il Corriere della Sera, in questo interessantissimo retroscena di Francesco Verderami, a pagina 9, sapete come ha definito la situazione attuale per l'Italia sul fronte immigrazione? Il nostro 11 settembre. Così Renzi cita l'11 settembre e cerca in Parlamento l'unità nazionale. Certo, lo vedremo in un momento in cui si litiga moltissimo per quisquilie in confronto a questa. Quisquilie, la legge elettorale. Però Renzi cerca in Parlamento un compromesso con anche i grillini, i leghisti. Vendola sarà più difficile, forse sarà più facile con Forza Italia. Su questo tema è il nostro 11 settembre e ci vuole unità per affrontare la situazione. Certo, l'Europa, questo c'è su tutti i giornali e domani ci sarà il vertice europeo, parla sempre più di azione militare. Come racconta anche Goffredo De Marchis, la sponda dell'ONU c'è nella forma di un comunicato del Consiglio di sicurezza sottoscritto dai 15 membri. Sto leggendo a pagina 4 di Repubblica. A questo punto il governo italiano chiederà all'Europa di agire subito senza aspettare una risoluzione del Palazzo di Vetro, cioè dell'ONU. Al Consiglio europeo potrebbe essere sufficiente per attivare un intervento armato che distrugga i barconi e colpisca le basi dei trafficanti di uomini in Libia. Si punta alla missione, come in Somalia, la missione definita Atalanta, per distruggere i barconi in Libia, e pare che l'Italia possa fare il ruolo di prima fila per questa vicenda. Staremo a vedere. Certo, si cerca l'unità su questo tema, magari ci fosse, visto che è un tema che riguarda tutti noi, ma l'unità in Parlamento in questo momento è veramente una chimera, almeno sul fronte legge elettorale, dove si litiga continuamente. Sapete che cosa è successo? L'abbiamo detto ieri, c'erano 10 del PD che in Commissione Affari Costituzionali avrebbero votato contro la riforma elettorale e dunque Renzi li ha fatti sostituire, questo è il dato di fatto, il PD li ha sostituiti con 10 nuovi che invece voteranno sì all'Italicum. Da qui si è scatenato l'inferno, è una decisione legittima dal punto di vista dei regolamenti, senza precedenti però, questo va detto. e le opposizioni dicono va bene, allora usciamo tutti dalla commissione se la voti da solo Renzi questa legge. Italicum, opposizioni sull'Aventino, il PD però dice è cagnara, andiamo avanti su tutto. Uno dei sostituti, David Ermini, che è subentrato alla commissione, è una sostituzione soltanto temporale, dice al Corriere, io sto benissimo dove sto, nella commissione giustizia, quindi vado lì, voto la legge elettorale e poi torno alla commissione giustizia, questo dice, intervistato da Daria Gorodischi. Però si è scatenato appunto l'inferno politico. Secondo Repubblica, retroscena di Francesco Bei, a pagina 12, Matteo Renzi dice ma quale problema della legge elettorale? Qui il problema sono io, non vogliono bloccare la legge ma vogliono colpire me. Bersani sta cercando di riprendersi il suo ruolo, ha costretto Speranza a dimettersi, ora vedremo quanti gli andranno dietro. È un Renzi che dice vogliono votarmi contro, mi votino contro. E anche Enrico Letta, lui cosa fa con l'annuncio delle dimissioni? Si mette a fare la riserva della Repubblica, il cincinnato. Perché proprio ora, dopo mesi di silenzio, alla vigilia del passaggio più delicato alla Camera, pensa forse di poter essere richiamato in servizio a Palazzo Chigi? Questo se lo chiede un renziano di stretta osservanza. Insomma, trame oscure sulla legge elettorale. Renzi, Corriere della Sera, mi votino pure contro se vogliono. Il PD tutto è con me, la gente del PD sta con me, sia i circoli sia gli amministratori, e quindi sfida per l'ennesima volta la minoranza del PD, incarnata un po' in Rosi Bindi, che ancora una volta fa un'intervista al Manifesto, intervistata da Daniela Preziosi. Rosi Bindi dice questa legge ormai sarà ad uso di Renzi, il PD è diventato un partito a vocazione leopoldina, nascerà sicuramente una sinistra alternativa, qualcuno se ne farà carico, ma se deve nascere sotto una buona stella deve sfidare Renzi sul futuro e non sul passato. Questo PD è a vocazione leopoldina e si riuniscono tra loro. La guerra è aperta, la sinistra nuova che avanza magari sarà incarnata da Mauro Meazza. Chi lo sa? Mauro, buongiorno! Buongiorno, ti ho trovato subito una poltrona nuova! Buongiorno, ma devo pagare qualche cosa? O no, no, anzi, magari ti pagano! Ah, vabbè, allora non lo so, parliamone. Ma avevo ieri, scusa, non erano entrati i rigoristi. Il venale Meazza, sì. Scusa, ma ieri non abbiamo detto che erano entrati i rigoristi, come sì, infatti, alle fine della partita di calcio, in commissione, quelli che tirano il rigore. Infatti in commissione passerà, poi c'è l'aula, c'è l'aula. Ah, e lì come lì non sostituzioni si può sostituire? No, lì non si possono fare sostituzioni. Ma guarda un po' quante cose si imparano ascoltando Alessandro Milan. Senti, per ricambiare tutte queste informazioni che mi hai dato e anche un po' l'offerta generosa, si fa per dire, che mi hai fatto, ti voglio ricordare che oggi con il Sole 24 Ore diamo la seconda parte della guida al 7.30 con tutti gli sconti e le detrazioni. Sai che c'è il 7.30 precompilato, anche se sì, tu continui sì a non scaricarlo. Vabbè, certo. Su questo poi vedremo magari devisu di sistemare la questione. Ecco, nel 7.30 precompilato naturalmente tu troverai alcuni sconti, alcune detrazioni, deduzioni già caricate dal sistema e altre no. Come fai a non perderti? Leggi oggi il Sole 24 Ore, le nostre 16 pagine che ti diamo in allegato sul punto sugli sconti e anche eventuali, potrebbero esserci anche degli errori nel calcolo del sistema, non possiamo escluderlo, lì ne parliamo non solo nel nostro inserto allegato ma anche nelle pagine di norme e tributi. Poi vedo che, mi spiace per te, ma si continua a parlare di Mr. B al Milan, B, che appunto sono sempre in imbarazzo. Il nostro Forchielli lo chiama Mr. Bean. Forse Mr. Bean, no, però Mr. B a me evoca delle cose, vabbè, insomma, quelli non più giovani come me ricordano degli eventi particolari appunto legati alla tua squadra, però nelle pagine di finanza, oltre a parlarti di Mr. B, parliamo anche invece dei movimenti sulle torri di trasmissione, quindi con la rinuncia da parte di AE Towers e che cosa si sta muovendo. E quello è abbastanza interessante, proprio ai fini poi dei conti Mediaset, chissà, potrebbe anche l'arrivo di Mr. B modificare delle altre cose, ma ti rimando alle pagine di finanza, non ti voglio tediare, ti voglio solo dire, ti sarai accorto che ieri è stata una giornata decisiva. Ah, non te ne sei accorto. Vabbè, allora, ieri sono stati varati in prima lettura, quindi adesso per entrare in vigore bisognerà aspettare ancora qualche mese, una serie di novità molto importanti per il fisco. Ah, certo. Quindi è stata una giornata decisiva per abuso di diritto, prendi nota, scontrino elettronico, abuso di... stai scrivendo? Guarda che domani ti interrogo. Investimenti dall'estero, i costi delle blacklist e la cosa più importante, l'abuso di diritto è probabilmente la cosa più importante, ma non va trascurato, quindi ultimo ma non meno importante, il raddoppio dei termini. Sottolineato tre volte e scritto in rosso, abuso. Bravo, e fai anche passa con l'evidenziatore. Allora, adesso io non ho tempo di spiegarti tutto questo, ma se tu guardi oggi le pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore, ti assicuro che puoi capire. Io per dire, io ho capito, quindi mi sembra che io possa essere un buon riferimento. Posso arrivarci anche io. Anche per i lettori. Ho una domanda per concludere, però, Mauro, perché dal Messaggero dicono che alla festa dell'unità a Bologna sono invitati, tra gli altri, la tronista Valentina Dallari, Mister Gay Emilia Romagna, una drag queen e il vincitore di MasterChef, ma non vedo tra gli invitati Bersani e Mauro Meazza. Ma Bersani forse Bersani. Intendevano il cantante? No. Tu non ci sei a MasterChef. No, forse non si saranno messi d'accordo con il mio manager. Sarà stato così. Va bene, ci fermiamo qui e ci sentiamo domani con molto volentieri. Traffico! This is George Clooney and I also like listening to 24 Mattino. Eccolo qua il nostro George, grazie per questo endorsement veramente da Vipume moderno. Allora c'è una novità in arrivo oggi dalla Camera, meno di colpi di scena, via al divorzio breve, ci vorranno solo 6 mesi per lasciarsi, non più i 3 anni della separazione. Maria Novella De Luca ne scrive su Repubblica, pagina 21, così anche il Messaggero a pagina 15, il divorzio breve a meno di colpi di scena, scrive Repubblica, è ormai una realtà. La Camera approverà stamattina la legge che istituisce questo divorzio breve, il cui cardine è un drastico accorciamento dei tempi. Tra la separazione e il divorzio non si dovranno più aspettare 3 anni, ma 6 mesi se l'addio è consensuale. 1 anno se il percorso è giudiziale. Nulla cambia se nell'ormai ex coppia ci sono i figli minori. I tempi restano identici. Non solo, cambiano anche le norme sul fronte patrimoniale. La comunione dei beni potrà essere sciolta nello stesso momento in cui si sottoscrive la separazione. Il cambiamento è vero e radicale, potrà incidere sulle cause di separazione in corso, regalando tempi più brevi a chi aspetta il divorzio. Ovviamente si ripercorre tutta la vicenda. Vedremo se non ci sono sorprese. Anche il Messaggero con Sonia Oranges racconta, pagina 15, tutto in arrivo oggi. Cambieranno le leggi e le regole del matrimonio dopo 45 anni se non ci saranno colpi di scena. Invece sta diventando un caso quasi internazionale il rapporto tra il Vaticano e la Francia. Il motivo, il pomo della discordia, è un ambasciatore, Laurent Stefanini, credo che loro lo pronunceranno così, 55 anni, scelto da Parigi come neo ambasciatore in Vaticano. C'è un problema per il Vaticano. Laurent Stefanini è dichiaratamente gay. La sua omosessualità è un problema, nel senso che il Papa lo ha incontrato, però c'è il no, cioè non è arrivato il gradimento. Sapete che quando un ambasciatore si accredita in un paese ci vuole il gradimento del paese dove l'ambasciatore va. Il gradimento del Vaticano non è mai arrivato. Ovviamente c'è un muro contro muro. I media francesi dicono che Papa Francesco lo ha incontrato di persona e gli ha negato il gradimento. Secondo Il Giorno, pagina 17, Parigi vuole forzarmi la mano, questa è la linea del Papa, e quindi all'ambasciatore gay, con la Francia che dice non molliamo, rimane il nostro ambasciatore accreditato in Vaticano. Chi la spunterà, chi lo sa. Oggi vi informo che se trovate due notizie sul Corriere della Sera e su Libero di questa vicenda, 97enne fa causa all'INPS, l'udienza slitta al 2018. Anch'io l'ho vista, ho detto alla faccia dell'ottimismo. In realtà, secondo la stampa, sarebbe una bufala questa notizia. E infatti la stampa con Rafael Zanotti la mette così a pagina 17. Gli avvocati sforna bufale per reclam. C'è una coppia di avvocati che non è quella più famosa che già era stata immortalata a Striscia Notizia, ma un'altra coppia di avvocati che per divertimento sforna bufale o notizie surreali. Una sarebbe proprio questa, l'ultima sarebbe questa, la causa del 97enne contro l'INPS e la udienza che slitta al 2018. Da anni lanciano notizie da prima pagina false, giusto così per farsi un po' di pubblicità. Quindi questa notizia sarebbe falsa. Non sarebbe vera questa notizia del 97enne che fa causa all'INPS. Udienza rinviata al 2018. Ma siccome siamo anche in diretta su Periscope in questo momento, ci starete vedendo da tutto il mondo, lo so sicuramente, faccio un po' un bagno di umiltà. Allora, siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Rimaniamo sulla stampa, dove Vittorio Sabadin racconta in mezza pagina l'arrivo del secondo royal baby, Kate e William. Soprattutto Kate sta per mettere al mondo il secondo royal baby, e secondo alcune stime questo frutterà milioni e milioni di euro, 80 milioni per l'economia. Ma perché? Perché i brindisi, i vestitini del Royal Baby che tutti andranno a comprare. Ma Royal Baby, mezza pagina sulla stampa, dai! Ma chi se ne frega! BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta... Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozzi novia fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei. Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Siamo qui, sono le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, molti giornali aprono anche oggi, come abbiamo visto in rassegna stampa, con il tema dell'immigrazione, sul quale pare che l'Europa voglia reagire in maniera dura, a dire ora azione militare. Per la verità, scrive il Secolo XIX, che mentre il ministro della difesa Roberta Pinotti era porta a porta a dire i piani militari non si svelano, cioè non diciamo nulla, Alfano era di martedì, ministro dell'interno, a dire così. Siamo alla ricerca di un consenso su un quadro di legalità internazionale per affondare i loro barconi. Noi da soli non lo possiamo fare. Questa è dichiarazione di stato di guerra. Lo ha dichiarato questa mattina anche il capo di stato maggiore della difesa. Non è possibile andare con le nostre navi lì senza un'autorizzazione internazionale. Questo deve essere molto chiaro. Questo Alfano, dunque, affondare i barconi. Intanto però il ministro dell'interno chiede altri posti per ospitare nelle regioni in tutta Italia i migranti arrivati. Saluto Roberto Maroni, che presiede la regione Lombardia con la Lega. Buongiorno presidente. Buongiorno. Beh, non solo con la Lega, con una coalizione dove c'è anche l'MCD, sì. Il partito di Alfano. Questo è vero, no, ma lei, intendevo dire lei della Lega. Maroni, sì. Perché la Lombardia chiude le porte al ministro Alfano a questa richiesta? Ma perché non siamo stati coinvolti, non possiamo accettare che qualcuno da Roma decida di mandare i clandestini su e il prefetto si mette a requisire gli alberghi senza coinvolgere i territori. Ma guardi che questa non è una reazione mia, è una reazione dei sindaci del PD della Lombardia, perché non si gestisce così un'emergenza. Bisogna coinvolgere gli amministratori, i sindaci, i territori, come avevo fatto io da ministro dell'interno quando nel 2011 capitò una cosa analoga, non di queste proporzioni, non di queste dimensioni. Sì. Io chiamai i presidenti delle regioni per chiedere loro se erano disponibili ad accogliere i clandestini, i profughi. Qualcuno disse di sì, qualcuno disse di no, e gestimmo questa cosa con il consenso dei sindaci, degli amministratori e dei presidenti di regione. Cioè, qui nessuno vi ha chiamato, nessuno vi ha detto niente. qui nessuno ci ha chiamato. Il prefetto riceve la telefonata da Roma e dice: domani mattina ti arrivano 100, 500, 1000, trova tu il posto dove metterli. E questo fa incazzare tutti, non si lavora così. Senta, tutti sembrano avere la soluzione in tasca. Lei appunto è stato ministro dell'interno, si parlò dei respingimenti, allora però c'era Gheddafi, era una situazione più stabile in Libia. La sua personale idea oggi, bombardare, potrebbe essere bombardare i barconi vuoti ovviamente? Ma questa mi sembra una roba un po' da matti, bombardare i barconi. I barconi si sa dove sono nei porti, ok? Basta non farli partire. Come si fa a non farli partire? Si mettono davanti ai porti le nostre navi militari, quando un barcone esce lo si prende e lo si rimanda indietro. Ma lo si rimanda dove? Questo è il punto. Bisogna fare lì dei campi profughi, ma lì bisogna farli. Le Nazioni Unite devono farlo, possono farlo, certamente. C'è l'UNHCR, che è l'agenzia dei rifugiati delle Nazioni Unite, sto parlando delle Nazioni Unite, non dell'Unione Europea, che può farlo benissimo. La comunità internazionale organizzare dei campi profughi lì, per prendere, per tenere lì tutti quelli che arrivano dal Sud Sahara, vedere lì se c'è qualcuno che ha diritto alla protezione internazionale e solo questi farli venire in modo sicuro. Quindi lei proporrebbe un blocco navale di fatto? Assolutamente sì, ma è la cosa più ovvia, più semplice, tecnicamente possibile. Non c'è nessuno in Libia che possa essere il nostro interlocutore. Bene, ripeto, le Nazioni Unite decidono di fare lì campi profughi. Abbiamo bombardato la Libia senza chiedere permesso a nessuno, no? Questo è un intervento umanitario, a maggior ragione. Non capisco perché non si faccia. Però immaginiamo che, ne so, lo scafista, che è gente senza scrupoli, arriva al limite delle coste libiche e dice ai migranti: ok, buttatevi in mare, perché di qua sa che c'è il blocco navale. Cioè, cosa facciamo? Rischiamo che ci rilascino lì in mare, no? No, ma non si fanno proprio partire i barconi. Se io metto la nave militare a 5 miglia davanti al porto, appena il barcone esce lo si ferma, non esiste problema. È un'invasione delle acque territoriali. Ma guardi, le acque territoriali internazionali sono 12 miglia. La Libia decretò autonomamente, unilateralmente, di portarle, mi pare, a 50 o 60 miglia. Ma se sono appunto acque internazionali, chi meglio di un'agenzia internazionale come le Nazioni Unite può intervenire? Quindi l'ONU. Per ragioni umanitarie stiamo parlando di salvare vite umane. Okay. Senta, le chiedo un altro tema che è molto leghista, se vuole, la questione dei Rom. Io ricordo che lei da ministro dell'interno fece il piano Nomadi, no? Dicendo che anche il modello Rom era un modello europeo. È diversa dall'idea radere al suolo. Allora, qual è la linea da tenere? No, non è diversa. Innanzitutto questa cosa venne fatta nel 2008-2009, no? tanti anni fa, come il modello. C'erano i campi nomadi abusivi allora, e noi dicemmo: cancelliamo, chiudiamo, radiamo al suolo i campi nomadi abusivi, creando dei campi di transito regolari, campi di transito, non campi nomadi, campi di transito, dove i nomadi potrebbero stare, avrebbero potuto stare per poche settimane, campi transito. Proprio l'operazione era la stessa, chiudere i campi nomadi abusivi. Okay. Dopodiché noi, il governo, non il ministro dell'interno, il governo diede le risorse ai sindaci che volevano fare questa operazione, i quali hanno gestito loro l'operazione. Se poi uno l'ha gestita bene o l'ha gestita male, non l'ho gestita. Non dipende io, da chi ha i soldi. No, ma l'obiettivo era questo. Però ha funzionato? Non ha funzionato come doveva funzionare. Bene, prendiamo atto di questo e allora interveniamo in un modo diverso. Ma allora il tentativo fu di sostituire campi nomadi abusivi con dei campi di transito. Ok, ma nel 2015 oggi, secondo lei, è ancora legittima l'esistenza di campi nomadi, di campi Rom? Regolari, ovviamente. Campi di transito, è dove uno che vive continuando a cambiare luogo può transitare e stare due settimane, non di più. Questo era l'obiettivo. E credo che sia una cosa che si possa fare. Diversi sono i campi nomadi, dove uno sta, senza controllo, fa quello che chi lo sa, addirittura. Cioè, questi lei dice è giusto raderli al suolo. Assolutamente sì. Senta Maroni, manca poco all'Expo, è tutto pronto? Questa domanda gliela fece anche credo un mese fa, un paio di mesi fa, ora mancano davvero poche ore. Ci presentiamo al mondo come? Ci presentiamo al mondo bene, credo. L'altra sera abbiamo fatto un incontro, il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura Milano con il Ministro dell'Interno, e c'era anche Giuseppe Sala, che è il commissario Expo, che è quello che ha la responsabilità dei lavori, e ha detto che tutti i padiglioni saranno pronti il 30 di aprile, cioè il giorno prima. Va bene, arriviamo proprio all'ultimo secondo. Va bene così. Però è meglio arrivare che non arrivare. Quindi tutti i padiglioni a posto saranno. Così ha detto, quindi c'è da crederci naturalmente. E penso che se qualche dettaglio non sarà pronto il 30 di aprile, sarà pronto qualche giorno dopo, ma dura 6 mesi l'Expo, e io penso che noi dovremmo parlare delle opportunità che Expo ci dà, non sempre di queste polemiche, finito, non finito, cosa succederà. Quali sono secondo lei le opportunità? Cioè arriverà davvero per esempio una grande massa di turisti, di visitatori? Sono di due tipi, non mi interessa tanto il numero di biglietti venduti, contrariamente a quanto si pensa, il successo non dipende da quello, ma dipende da come sapremo sfruttare in termini di turismo, ma non lì a Milano, ma in tutta la Lombardia e in tutte le regioni. Io vorrei che questi 20 milioni di visitatori diventassero davvero turisti, cioè tornassero da noi, non solo in quei 6 mesi ma almeno nei 6 anni successivi. È per questo che noi assieme al governo abbiamo messo in atto delle iniziative di promozione dei nostri luoghi. La Lombardia, per esempio, parlo della mia regione, ha 10 siti UNESCO sui 50 italiani che io sto promuovendo, perché quanti di quelli che vengono sono interessati a vedere i nostri laghi, le nostre montagne. Questa è la prima cosa. Secondo, opportunità di incontro, come si dice, B2B, delle nostre imprese nei confronti dei paesi che hanno bisogno di investimenti e di lavoro, quindi sì, opportunità per le nostre imprese, e al contrario promuovere le nostre regioni come luogo in cui altri paesi, fondi internazionali possono investire. Ma il vero successo si misurerà dopo, lei dice, quando sarà finita l'Expo, quello che è... si misura durante ma soprattutto dopo. Esattamente sì. Questo che noi abbiamo messo in piedi, come noi avremo il nostro padiglione Lombardia, che sì, si chiama Pianeta Lombardia, un luogo dove fare i B2B tra i nostri imprenditori, le nostre imprese e tutto il mondo che parteciperà adesso. Noi Maroni, dopo che l'avremo salutata la pubblicità, parleremo di questa vicenda del calcio, le violenze nel calcio. Ha visto che è stata condannata, alcuni tifosi dell'Atalanta sono stati condannati in via penale e volevano contestare la sua tessera del tifoso, e sono stati invece, come dire, un po' graziati dalla società, perché si sono impegnati a fare volontariato alla Caritas. Rimane la soluzione contro la violenza negli stadi quella tessera del tifoso che lei inventò? Sì, non è che volevano contestarmi, hanno raso al suolo mezza città quando sono andato lì vicino a Bergamo, incendiando le auto, e mi spiace che ci sia sempre da parte delle società, in questo caso dell'Atalanta, questo atteggiamento di comprensione, tra virgolette, che è quasi di complicità, perché non va bene, si dà un segnale sbagliato. La violenza negli stadi si combatte reagendo, e con la sanzione più grave per chi, per questi tifosi, tra virgolette, cioè senza fargli andare allo stadio per un anno, 2 anni o per tutta la vita. Questa è la punizione. Quindi la tessera del tifoso è uno strumento, la sanzione è il DASPO, cioè il divieto di partecipare, di seguire la squadra, di andare allo stadio. Anche se purtroppo società conniventi ce ne sono, ha visto anche nella sua Varese è successo un po' un casino, anche a Cagliari. È successo un casino bestiale a Varese, e non solo naturalmente. E qui bisogna, io avevo tentato di recidere questo legame tra le società, alcune società, non tutte per la verità, e le tifoserie organizzate, che sono a volte pericolose perché ricattano le società. e purtroppo non ci siamo riusciti a pieno, ma questa è la strada, quindi bisogna continuare senza timore, senza paura dell'impopolarità delle tifoserie. Un governo serio, un ministro dell'interno deve fare questo. Ha visto che Berlusconi venderà il Milan a Mr. B? Lei ce l'aveva anticipato che c'era qua, cioè ci aveva anticipato che Berlusconi le aveva detto che avrebbe fatto qualcosa, ma non si sa cosa. Era questo che le aveva anticipato? Esatto, sì sì, ho detto che ero tenuto al segreto, sì. Naturalmente. Ma è segreto, questo il segreto? È questo adesso che, cioè, quello sì, che sì, penso di sì, e penso che sia una buona scelta, una buona, noi ci crediamo molto come tifosi, Berlusconi ci ha abituato troppo bene. Ma come vende ai cinesi, insomma, Maroni? Vende a qualcuno che investe, che mette soldi e che quindi fa tornare il Milan ai vertici dell'Europa. Quindi anche se sono cinesi va bene lo stesso. In questo caso vanno bene, insomma, i soldi cinesi. La Cina è vicina, anzi la Cina è qui. Altro che vicina. Va bene, la ringrazio Maroni, buona giornata ovviamente. Grazie, Roberto Maroni, grazie a voi. Presidente della Regione Lombardia, come detto, dopo la pubblicità parleremo, approfondiremo con Olivero Bea, con il sindaco di Gandosso in provincia di Bergamo, che è stato condannato per questi stessi fatti per cui sono stati condannati alcuni tifosi dell'Atalanta, la violenza negli stadi e non solo, le connivenze tra le società di calcio e gli ultra. Ma perché non si riesce a recidere, come ha detto Maroni, questo legame tra le società di calcio e i tifosi violenti? Tra poco. Allora, perché non si riesce, ci ha detto poco fa, a recidere, ce l'ha detto Maroni, a recidere il legame tra le società di calcio e i tifosi giudicati violenti in alcuni casi? Di recente il caso della Roma, sapete che il presidente Pallotta ha detto, insomma, i tifosi non sono quelli violenti, a Cagliari hanno aggredito la squadra, a Varese hanno distrutto il campo. Succede che invece a Bergamo sono stati combinate varie pene, 3 anni per esempio al capo degli ultra di Bergamo, Claudio Galimberti, e pene ad altri, ma invece nello stesso procedimento l'Atalanta come società ha ritirato la querela nei confronti dei tifosi, perché ha detto si impegneranno a fare volontariato alla Caritas, e per qualcuno è stata una sorta di, come dire, abbassare le braghe, non lo so. Lo chiedo subito a Olivero Bea, che saluto. Olivero Bea, firma del Fatto Quotidiano, buongiorno Olivero. Buongiorno, buongiorno. È così, hanno abbassato le braghe? Beh, certamente non hanno dato un segnale in direzione della, diciamo così, della serietà e del rigore per tutto quello che succede, anche perché non è un luogo così tranquillissimo Bergamo da questo punto di vista, quindi forse la società, al di là del fatto di mandare alla Caritas i violenti, i rei, i condannati, insomma, poteva semplicemente intanto trattare i condannati da imputati condannati, sì. Invece no, c'è sempre questa sorta di franchigia del calcio di cui io parlo nei miei articoli. Infatti, cioè, il calcio è un mondo un po' così, in cui valgono delle regole un po' diverse. Certo di dire che sono condanne in primo grado. Tra poco sentiremo anche la voce del condannato, il Boccia. Però, Oliviero, voglio presentare il sindaco di Gandosso in provincia di Bergamo, Alberto Maffi. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, buongiorno a dottor Bea e ai vostri radioascoltatori. Allora, sindaco, anche lei è finito in questa inchiesta, anche lei è stato condannato in primo grado. A quanto? Purtroppo sì, ho una condanna in primo grado, 8 mesi. L'accusa nei suoi confronti era che lei, lo dico brutalmente per far capire, avvisava via SMS gli ultra dell'Atalanta dei movimenti della polizia. Di questo l'hanno accusato, di aver fatto la vedetta lombarda, sindaco. Non entriamo nel merito del processo, lei si difenderà. Che risponde però a questo tipo di... Allora sì, sicuramente c'è amarezza, anche perché abbiamo con i miei legali cercato di dimostrare la mia assoluta estraneità a questi fatti, e non ce l'ha fatta. Vabbè. Invece c'è stata la condanna in primo grado, che quindi non è definitiva, e si cercherà assolutamente nei prossimi gradi di giudizio di dimostrare l'estraneità, l'innocenza rispetto a quanto mi è contestato. Ma lei li avvisava, cioè diceva arrivano i blu, che sarebbero i poliziotti. E questa è una ricostruzione dell'accusa al processo. Ho cercato invece di dimostrare una situazione diversa. È stato un maxi processo quello di Bergamo, con una richiesta di pene per 166 anni, con un castello accusatorio che invece durante il dibattimento si è molto sgretolato, tanto che le pene combinate sono state molto inferiori a un terzo, di circa 47-48 anni, quindi anche lo stesso castello accusatorio durante il dibattimento. Sì, ma mi faccia capire, ma lei è tifoso dell'Atalanta e segue con passione il calcio? Sì, sono da buon bergamasco, sono tifoso dell'Atalanta. Che ne pensa che l'Atalanta ha ritirato la querela nei confronti dei tifosi perché faranno volontariato? Beh, io su questo mi sono informato anche parlando con i legali che hanno seguito i ragazzi dell'Atalanta. Comunque non è una reazione di querela, ma si è trattato di un vero e proprio accordo transattivo tra la società Atalanta e i legali, gli avvocati di questi ragazzi. Sì. Questi ragazzi che comunque hanno ammesso la loro pena chiedendo scusa alla società Atalanta, erano 40 tifosi di cui il 90%, quindi 38 ragazzi incensurati, ed erano accusati di lancio di qualche uova marcia e di uno zerbino bruciato. La società Atalanta, come dalle parole dello stesso direttore generale Marino, invece che rovinare la fedina penale a 38 di questi ragazzi attraverso una valutazione con il proprio comitato etico, comunque ha approvato che fosse meglio un percorso di riabilitazione attraverso un impegno in attività di solidarietà. Beh, interessante questa cosa, interessante. Oliviero Bea, hai sentito? Cioè l'Atalanta si è riunito al comitato etico, ha deciso... Vabbè. Allora, io distinguerei, questo che abbiamo appena ascoltato è un discorso che mi sembra interessante e sensato da parte dell'Atalanta e di questi 38 su 40 incensurati. Uno. Due, è l'atteggiamento che si ha in generale nei confronti dei reati dei tifosi che praticamente non vengono considerati reati, è il discorso che facevamo all'inizio, sono due cose diverse. Direi, teniamo da parte in questo caso questa novità del fatto che 38 incensurati dicono: ma mi vuoi rovinare la fedina penale, io vado a lavorare a Caritas, e la società in fondo dice no, ma insomma non siamo così cattivi, quindi è una remissione di querela, anche se il sindaco dice di no, lo è in un'altra forma ovviamente, se la situazione è questa, però lo è. Quindi da questo punto di vista io non insisterei più di tanto sui 38, insisterei, perché può essere una cosa sensata, insisterei sul fatto che pare che il tifo sia una specie di, come dire, di Portofranco. Ma perché? Cioè, qual è l'interesse della società? Certo, avere i supporter, ma perché in Inghilterra, dopo tutto quello che hanno fatto, non hanno tifosi che seguono con passione? Io personalmente ho una visione che il cui aggettivo culturale può mettere paura ai radioascoltatori, quindi per cortesia non mettano mano alla pistola, pistola culturale in questo caso. Ma è che proprio culturalmente, come idea del mondo, c'è questo fatto che il calcio, nel calcio può passare tutto quasi, tanto quello è franchigia, è ricreazione, e quindi non è la stessa cosa. Un incidente in macchina, un reato automobilistico e un reato allo stadio, perché lo stadio in fondo, o tutto quello che parte dallo stadio come pretesto, in fondo lo stadio è il nostro tempo libero, è uno sfogatoio, sia pure travisato, ecco, mettiamola così. Sì, è uno sfogatoio dove la gente dice ma vado lì e mi sfogo un po' delle tensioni. Se non mi sfogo allo stadio, dove mi sfogo? Ecco, detta proprio brutta. No, perché sindaco Maffi, cioè, per carità, lanciare due uova a marce, ci sono cose più gravi nella vita. Però sì, hanno bruciato uno zerbino, hanno lanciato due uova a marci. C'è un po' questa idea che nel calcio si possa autorizzare un po' questo tipo di violenze, non credo. Tornando comunque sui fatti della sede dell'Atalanta, bisogna anche dire che comunque sul caso specifico che è stata considerata dagli inquirenti una violazione di domicilio, questi danneggiamenti della sede dell'Atalanta, è arrivata una assoluzione nel merito da parte del giudice, quindi i ragazzi, questi 40 ragazzi sono stati totalmente assolti da questi capi di imputazione, ma hanno comunque confermato che, a prescindere dalla loro soluzione, porteranno avanti il loro percorso di riabilitazione, di volontariato, come stabilito con il comitato etico dell'Atalanta, attraverso la beneficenza in Caritas. Vogliamo però sentirla la voce di Claudio Galimberti, detto il Boccia, colui che è considerato il capo ultra, è stato condannato. Non può parlare perché gli avvocati, però qualche parola ce l'ha detta, ieri l'ho chiamato. No, guardi, faccia cortesia che non mi faccia parlare. Mi avrei da dire, per cui mi rispetti per piacere eventualmente. Sì. Ma tu puoi andare allo stadio, perché leggevo che avevi DASPO oppure... No, io il DASPO l'ho finito, non so perché non mi fanno andare. Sono a via, sono fuori. Il DASPO è finito, ma puoi entrare allo stadio? No, non posso, non mi fanno andare. Vedi quante cose non vanno bene. Cioè, perché ti riconoscono, ti vedono in faccia. No, ho finito la fila, quindi dovrei entrare. Come se tu rubi al supermercato, rubi e vai in carcere e esci non per fare la spesa. Che discorso è? Io ho finito, ho scontato 5 anni di fila. E chi ti impedisce di entrare allora? La questura, perché non vuole. Per la tessera del tifoso, insomma. No, ma che cosa c'entra? Sei proprio indietro una vita. Cioè la questura dice non puoi entrare. Sì, non può essere così indietro, dai. Vabbè. Vedi che è inutile. Ti saluto, dai. Va bene. Vabbè, Oliviero Bea, sono un po' indietro, io sono... Però adesso di quello che è stato detto, al di là dell'indietro e dell'avanti, fa effetto che l'esempio che gli sia venuto è come uno che va a rubare al supermercato. Si sconta la pena e poi non può più fare la spesa. Ecco, questo è significativo. Cioè, io credo che, per esempio, tornando a quello che diceva il sindaco, ma insomma, sti 38 o quanti sono che adesso, invece che i DASPI, hanno la Caritas, no, per capirci, non potrebbero operare per cercare di bonificare gli ultras, cioè lavorare contro quello che sono stati. Sì. Insomma, da qualche parte bisognerà pur cominciare, perché lo stadio deve ritornare a essere vivibile, se no è peggio per tutti, cioè, è una china. No, no, ma infatti, ma poi la gente ci scrive Panem e Circense. So, capito, ma perché la gente va a vedere il basket e se volete il Panem e Circense, se va a vedere l'hockey su ghiaccio, va a vedere il rugby, va a vedere il pattinaggio, va a vedere qualsiasi manifestazione sportiva, e queste cose non succedono. E questo, questa è la questione. Dopo il traffico, però, vorrei chiedere al sindaco allora questa storia di... perché non l'ho capita gli SMS. Ripeto, sindaco, non dobbiamo fare il processo nel processo. Lei si difenderà nelle aule, in primo grado è stato condannato, ci sarà un secondo grado, il terzo grado, però la voglio capire questo suo rapporto con i tifosi, tra poco. Allora, come la vede Giampiero Mughini dal nostro Pierluigi Pardo a Tiki Taka? Col calcio hanno a che fare degli zoccoli di tifoseria che sconfinano nella delinquenza. Fucking idiots. Fucking idiots. Se non sapete l'inglese, attrezzatevi e vedetevela voi. Sindaco Maffi, allora, perché lei ha rapporti? Le chiedo in maniera con Claudio Boccia Galimberti, mi risulta abbia avuto 20 DASPO, cioè 20 divieti di andare a vedere le partite. Cioè lo sente? Che rapporti sono i suoi? Beh, come vi dicevo prima, da buon bergamasco, sono anch'io tifoso dell'Atalanta. E vabbè, ma non è che tutti i tifosi dell'Atalanta che vanno allo stadio conosceranno personalmente e avranno il cellulare del Boccia, no? Beh, allora, a Bergamo stavamo parlando prima di tifoseria, è stato fatto un percorso anche negli anni nel quale è stato portato avanti anche molti discorsi di solidarietà e beneficenza attraverso queste situazioni. Mi è capitato di conoscere Galimberti, volevo ricordare che a Bergamo negli ultimi anni sono stati raccolti oltre 100.000 euro che sono stati dati in beneficenza degli asini in Ruanda, la squadra dell'Aquila Rugby, che ha portato dopo il terremoto del 2009 sulle proprie maglie anche il sito della curva nord dell'Atalanta, il quale per 3 o 4 anni consecutivi ha dato un supporto morale. Quindi ci fanno anche iniziative benefiche. Ci sono molte iniziative, da due stati sono stati raccolti oltre 20.000 euro per gli amici della pediatria dei reparti oncologici dell'ospedale di Bergamo. Sono cose meritevoli, nessuno le toglie. Esattamente. Però le chiedo che durante queste attività si possono conoscere anche le persone. Chiedo, sindaco, tanto questo non è un'aula di tribunale, ma perché questo messaggio ci sono i blu è rischio trappola mandato a Galimberti, le contestano, cioè cosa voleva dirgli? Sì, è stato il messaggio che probabilmente ha sancito la mia condanna. Io ho cercato di spiegare al giudice, il quale comunque ha nettamente ridimensionato la richiesta che aveva fatto il pubblico ministero per me, perché il giudice è stato comunque considerato come un concorso e rispetto degli episodi che si sono verificati. Sì, cioè qua vedono però un sindaco che, voglio dire, sta con gli ultra invece che con la polizia, e quindi sta con quello che rappresenta l'antistato in questo momento di possibili scontri rispetto allo Stato. L'hanno vista così e capisce che no, non era una volontà di stare contro la polizia. Era una persona che mi ha chiesto se in quel momento allo stadio c'era la polizia, perché voleva contestare la squadra dei calciatori. In quell'anno l'Atalanta andava veramente male, una sconfitta dietro l'altra, aveva perso addirittura contro il Lumezzane di Serie C in Coppa Italia. C'era un clima di forte contestazione. Io ho risposto a questa persona dicendo: stai lontano dallo stadio, polizia, anche perché questa persona era meglio che non si avvicinasse allo stadio. Questa è stata data un'interpretazione accusatoria, e cercheremo poi di difenderci in secondo grado. Cercare di ristabilire la verità. Vabbè, insomma, giustamente lei tiene anche un profilo, no? Olivero Bea, il sindaco, tiene un profilo, non può svelare tutte le proprie carte. Però certamente è innegabile che venga giocata una partita fra Oltra e Polizia e venga preso posizione da una parte invece che dall'altra. In qualche modo. Però Olivero Bea, forse quello che ha lanciato più il sasso nello stagno per lanciare questo tema è stato Pallotta, no? Il presidente della Roma, che da americano forse ha una cultura, un approccio alla cultura sportiva che è ben diversa da quella. Pensate in uno stadio americano una cosa del genere, cioè è inconcepibile. Per carità, ci saranno violenze, gente che si tira i popcorn e gli hot dog anche lì per un gol sbagliato o un touchdown mancato, ma cose del genere, tifosi che si aspettano a cinghiate non sono proprio. Io non lo vedo, no? Non lo vedo un lanciatore, un battitore che va verso un settore dello stadio a parlare con qualcuno perché deve essere autorizzato a fare qualcosa dalla cosa. Quindi Pallotta, che cosa avrà in mente secondo te? Pallotta secondo me da un certo punto di vista è vicino alle cose, perché naturalmente è il proprietario della Roma, è vicino alle cose italiane, da un altro punto di vista anche proprio geograficamente è lontano, perché infatti è intervenuto con ritardo su questa storia della curva, ogni tanto viene, insomma, Pallotta in realtà, o un rappresentante di Pallotta dovrebbe essere molto più presente a Roma per capire, a Roma in Italia, insomma, per capire qual è la situazione del coso. Però ecco, è un problema anche di comunicazione, credo. E detto questo, il Pallotta ha preso evidentemente se la cosa l'ha colpito abbastanza da fargli dire qualche cosa di forte, come non è possibile, niente curve, così non vogliamo e via dicendo. L'altro aspetto che fa effetto è che non è che si siano messi d'accordo tutti i presidenti della Lega, io la chiamavo in un articolo la Lega Fantasma, tutti d'accordo a dire beh, però Pallotta ha ragione, basta. Ma no, un paio hanno detto sì e tutti gli altri se ne fregano. Quindi questa connivenza rimane. Ma come si rompe, come si recide quel legame? Prima avevamo Maroni, dice recidere il legame tra ultraviolenti, che vuol dire una frangia, non tutti, e società. Come si recide, si riuscirà? Io mi ricordo, questo per dare l'idea proprio anche anagrafica di come passa il tempo, mi ricordo verso il 78-79 da giovane giornalista, diciamo così, che aspettavo nella sala stampa del Viminale perché c'era l'idea, io lavoravo alla Repubblica all'epoca, e c'era l'idea di fare, di dichiarare guerra agli striscioni, la lotta agli striscioni. Era il 78-79, rendo l'idea. Ecco, giusto, no, hai reso benissimo l'idea di quello che vuol dire fare le cose in Italia. Vabbè, io ringrazio Olivero Bea del Fatto Quotidiano, ringrazio il sindaco di Gandosso in provincia di Bergamo, Alberto Maffi, e ringrazio ovviamente tutti voi, Lorenzo Nespoli in redazione, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi. Il nostro alpino Peter Bescapè è in regia. Vi ricordo che potete seguirci sul sito, ci sono tante novità. Radio24.it, nella nostra pagina 24 Mattino mettiamo le foto, i video, gli approfondimenti, audio. Trovate tante cose per sbizzarrirvi. Seguiteci anche su Twitter, il mio profilo Alino Milan, e ci ritroviamo domani 6:30. 24 Mattino.